Il terzo anello ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi. Massimo Popolizio legge Le Memorie di Barry Lyndon, di William Thackeray, traduzione di Tommaso Giartosio. Mi accorgo di aver già riempito decine e decine di pagine. Eppure, una grossa parte della mia storia, la porzione più interessante, resta ancora da raccontare. Quella che descrive il mio soggiorno nei regni d'Inghilterra e d'Irlanda e il ruolo chiave che vi ho svolto quando mi muovevo tra gli uomini più illustri del paese e io stesso non ero certo il meno distinto in quel brillante circolo. Perciò renderò giustizia a questa parte delle mie memorie che è certo più importante di quanto possano esserlo le mie avventure all'estero, anche se con queste potrei riempire interi volumi di racconti curiosi. Per parlare di ciò che mi accade in patria, taglierò corto con il resoconto dei miei viaggi in Europa e dei miei successi presso le corti del continente. Basti dire che non c'è capitale in tutta Europa, eccetto la miserabile Berlino, in cui il giovane cavalier de Balibari non fosse conosciuto e ammirato, e dove non abbia fatto parlare di lui gli uomini più valorosi, le donne più belle e tutta la nobiltà. Tanto meno occorre che io accenni ai miei successi con la frazione più piacente del creato. Uno dei gentiluomini più dotati, alti, atletici e belli d'Europa, come ero io allora, un giovanotto, insomma, con il mio aspetto, doveva per forza avere qualche vantaggio. Vantaggi che una persona con il mio carattere sapeva benissimo come usare. Ma su questo argomento rimango muto. Incantevole Shuvalov, Skotarska dagli occhi neri, Bruna Valdez, tenera Egenheim, brillante Lageac, cuori gentili che ai vecchi tempi sapevate bene come battere per il giovane ardente gentiluomo irlandese. Dove siete ora? Anche se i miei capelli sono ingrigiti e i miei occhi appannati e il mio cuore infreddolito dagli anni, dalle delusioni, dai tradimenti degli amici, non ho che da sprofondarmi nella poltrona a riflettere perché quelle dolci figure risalgano dal passato e mi si innalzino davanti con i loro sorrisi, le loro maniere gentili, i loro occhi teneri e lucenti. Non ci sono più donne come loro, né modi come i loro. A rievocare il ricordo di queste creature belle e gentili, io non provo che un gran piacere. Vorrei poter dire altrettanto del ricordo di un'altra signora, che d'ora in poi svolgerà un ruolo importante nel dramma della mia vita. Parlo della contessa di Lyndon. Feci la sua fatale conoscenza a Spa, quando i fatti raccontati nell'ultimo capitolo mi avevano da poco costretto a lasciare la Germania. Honoria, contessa di Lyndon, viscontessa Ballingdon in Inghilterra, baronessa di Castle Lyndon nel Regno d'Irlanda. Ai suoi tempi era così nota nel gran mondo che non occorre certo che mi dilunghi con la storia della sua famiglia. Era, non occorre dirlo, contessa, viscontessa e baronessa per diritto di nascita. Le sue proprietà nel Devon e in Cornovaglia erano tra le più estese di quelle regioni. Le sue terre irlandesi non erano meno magnifiche. Quando la vidi per la prima volta a un ricevimento a Spa, era sposata con suo cugino, il molto onorevole Sir Charles Reginald Lyndon, cavaliere dell'Ordine del Bagno e ambasciatore di Giorgio II e Giorgio III presso diverse piccole corti europee. In poche parole, veniva citato come uno degli uomini più eleganti e raffinati del suo tempo. Feci la conoscenza di questo gentiluomo, come al solito, al tavolo da gioco che lui frequentava assiduamente. Non si poteva proprio fare a meno di ammirare la fermezza e il coraggio con cui si dedicava al suo passatempo preferito, benché logorato dalla gotta e da una miriade di altri malanni, ridotto a un invalido, frullato di qua e di là nella sua sedia a rotelle, afflitto da pene d'inferno, ogni mattina e ogni sera lo vedevate al suo posto dietro il meraviglioso tavolo verde. E sì, come spesso accadeva, aveva le mani troppo deboli o infiammate per reggere il bussolotto, faceva lo stesso la sua puntata e poi chiedeva al valletto o a un amico di tirare i dadi per lui. A me piace questo spirito strenuo di un uomo. I più grandi successi nella vita sono stati strappati grazie a questa indomabile perseveranza. Io ero ormai a quell'epoca uno dei personaggi più in vista d'Europa e la fama delle mie imprese, dei miei duelli e del mio coraggio al gioco mi radunava attorno una folla in qualunque ritrovo mondano mi presentassi. Potrei mostrare pacchi su pacchi di biglietti profumati per provare che questa smania di conoscermi non colpiva solo i gentiluomini, non fosse che io odio vantarmi e parlo di me stesso soltanto lo stretto necessario per raccontare le mie avventure, le più singolari che un uomo abbia mai vissuto in tutta Europa. Dunque, feci per la prima volta la conoscenza di Sir Charles Lyndon quando quel molto onorevole cavaliere mi vinse 700 monete d'oro a picchetto. In questo gioco era quasi alla mia altezza e io le persi con molta buona grazia e gliele pagai. E le pagai, statene certi, con molta puntualità. Lyndon era molto fiero di aver vinto del denaro a una persona così celebre, e tra noi nacque una certa confidenza, che però per qualche tempo non andò più in là delle cortesie che ci si scambia ai bagni termali o alle conversazioni al tavolo dei rinfreschi durante le serate di gioco. Ma poco a poco crebbe, finché non venne ammesso alla sua intimità. Era un uomo che parlava sempre chiaro. La nobiltà a quei tempi era ben più fiera di adesso e spesso mi diceva con quel suo stile insieme sprezzante e schietto: «Al diavolo, Mr. Barry! Voi avete un modo di fare da barbiere e credo che il mio lacchè negro abbia avuto un'educazione migliore della vostra, ma siete un giovanotto fatto a modo vostro e dotato di fegato. E mi piacete, signore, perché sembrate deciso di andare all'inferno scegliendovi la strada da solo». Io lo ringraziavo ridendo per questo complimento e gli dicevo che, visto che doveva partire per l'altro mondo molto prima di me, gli sarei stato grato se mi avesse fatto preparare un posticino comodo. Altre volte si divertiva un mondo a sentire i miei racconti sugli splendori della mia famiglia e le meraviglie di Castlebrady. Non si stancava mai di ascoltare queste storie, né di riderne. «Tenetevi strette le vostre briscole, ragazzo mio», disse, quando gli raccontai le mie disavventure in fatto di matrimonio, e spiegai quanto fossi stato vicino a conquistare la più grande fortuna di Germania. «Fate quel che vi pare, ma non vi sposate, mio candido contadinotto irlandese». Mi dava un'infinità di strani soprannomi. «Coltivate i vostri grandi talenti nell'arte del gioco, ma ricordate, una donna potrà sempre battervi». Qui io non fui d'accordo e citai numerosi casi in cui avevo conquistato i caratterini più intrattabili di tutto il gentil sesso. «A lungo andare vi batteranno, caro mio. Credetemi sulla parola. Se vi sposate, vi trovate subito sconfitto. Ma guardate me. Ho sposato mia cugina, la più nobile e famosa ereditiera d'Inghilterra. L'ho sposata quasi contro la sua volontà». E qui un'ombra cupa passò sul viso di Sir Charles Lyndon. «È una donna debole. La vedrete, signore. E vedrete quanto è debole. Ma è lei la mia padrona. Ha amareggiato tutta la mia vita. È una sciocca, ma ha avuto la meglio su una delle migliori teste della cristianità. È enormemente ricca, eppure non so come non sono mai stato tanto povero come da quando l'ho sposata. Credevo di migliorare la mia posizione, e invece lei mi ha reso infelice e mi ha ucciso. e farà altrettanto per il mio successore quando io me ne sarò andato. «Ha un grosso reddito, sua signoria?» domandai io. Al che Sir Charles scoppiò in una risata che era quasi un urlo e mi fece arrossire non poco della mia gaffe. Il fatto è che a vederlo nelle condizioni in cui era, non potevo fare a meno di fantasticare sulle possibilità che avrebbe avuto un uomo di talento con la sua vedova. «No, no, no, no, no!» disse ridendo. «Al lupo, Mr. Barry! Se ci tenete alla vostra serenità, non pensate a infilarvi le mie scarpe quando resteranno vuote. E poi non credo proprio che Milady Lyndon acconsentirebbe a sposare un...» «Un che cosa, signore?» dissi io furente. «Ma lasciamo perdere cosa. Ma l'uomo che se la piglia se ne pentirà sulla mia parola. Che la peste la colga!» Non fosse stato per l'ambizione mia e di mio padre, lui era suo zio e tutore, e non volevamo lasciare uscire dalla famiglia un tesoro così. Avrei potuto almeno morire in pace, portarmi tranquillamente la mia gotta giù nella tomba, vivere nella mia modesta casa d'affitto a Mayfair, avere tutte le case d'Inghilterra pronte ad accogliermi. E invece ora? Ora ne ho 6 di case, tutte mie, e ognuna è un inferno. Diffidate delle grandi altezze, Mr. Barry. Prendete esempio da me. Da quando mi sono sposato e sono ricco, sono il poveraccio più infelice del mondo. Guardatemi, sto morendo. Sono sfibrato, un invalido, e ho solo 50 anni. Il matrimonio mi ha invecchiato di 40 anni. Quando presi Lady Lyndon, non c'era uomo della mia età che sembrasse giovane come me. Che pazzo sono stato! Avevo tutto il necessario, i miei vitalizi, una libertà assoluta, la migliore società d'Europa, e ho rinunciato a tutto per sposarmi ed essere infelice. Prendete esempio da me, capitano Barry, e tenetevi strette le vostre briscole. Benché avessi ormai un'amicizia piuttosto intima con il cavaliere, per molto tempo non penetrai in nessun appartamento del suo palazzo, all'infuori di quelli che lui occupava. Sua moglie viveva completamente separata da lui, al punto che sembrava curioso che viaggiassero insieme. Lei era figlioccia della vecchia Mary Wortley e, come quella celebre vecchia signora del secolo scorso, si dava delle grandi arie di intellettuale in gonnella. Lady Lyndon scriveva poesie in francese e in italiano, che i curiosi possono ancora andarsi a leggere nelle pagine dei giornali dell'epoca. Era in corrispondenza con numerosi savants europei su argomenti di storia, scienza, lingue morte e soprattutto di teologia. Qualsiasi avventuriero che avesse per le mani una scoperta nel campo della chimica, un nuovo busto antico o un piano per trovare la pietra filosofale, era certo di trovare in lei una protettrice. Innumerevoli opere venivano dedicate a lei i poetastri di tutta Europa si rivolgevano in infiniti sonetti, chiamandola Lindonira o Calista. Le sue stanze erano zeppe di orribili statuette grottesche in porcellana e ogni sorta di oggetti da amatore. Nessun'altra donna si gloriava dei suoi principi più di lei, e nessuna si lasciava corteggiare così a profusione. Lady Lyndon se ne andava in giro con una piccola corte tutta per lei. Per i suoi spostamenti usava una mezza dozzina di carrozze. Dentro la sua viaggiavano insieme a lei la sua dama di compagnia, era sempre una signora di rango, un po' scalcinata, i suoi barboncini, i suoi uccelli e il suo savant prediletto del momento. In un'altra c'erano la sua segretaria e le sue cameriere personali, che per quanto facessero non riuscivano a impedire alla loro padrona di avere un'aria da sciattona. Sir Charles Lyndon aveva una carrozza tutta per sé. I domestici di casa seguivano in altre vetture. Occorre anche ricordare la carrozza in cui viaggiava il cappellano di Lady Lyndon, Mr. Grant, che fungeva da istitutore di suo figlio, il piccolo visconte di Ballingdon, un ragazzino malinconico e abbandonato che a suo padre era più che indifferente, mentre sua madre non lo vedeva mai, con l'unica eccezione di 2 minuti appena alzata. Allora gli faceva un paio di domande di storia o di grammatica latina e poi lo lasciava per il resto della giornata ai suoi svaghi o alle cure dell'istitutore. Il solo pensiero di questa Minerva, la vedevo di tanto in tanto nei luoghi pubblici, circondata da sciami di poveri abati e maestri di scuola che l'adulavano, per qualche tempo bastò a spaventarmi. Non avevo il minimo desiderio di fare la sua conoscenza. Non desideravo affatto essere uno degli adoranti straccioni al seguito della grandama, tutta gente a metà tra l'amico e il lacché, che componeva versi, scriveva lettere, faceva commissioni, accontentandosi di venir pagata con un posto nel palco di sua signoria la sera della commedia o un coperto alla sua tavola al pranzo di mezzogiorno. «Non abbiate paura», diceva Sir Charles Lyndon. «La mia Lindonira non vuole avere niente a che fare con voi. Le piace l'accento toscano, non quello del Kerry. Dice che puzzate troppo di stalla per venire ammesso alla compagnia delle gentildonne. E tre domeniche fa, cioè l'ultima volta che mi ha fatto l'onore di parlarmi, ha detto: «Mi stupisco, Sir Charles Lyndon, che un gentiluomo che è stato l'ambasciatore del re possa abbassarsi a giocare, a sbronzarsi con ignobili bari irlandesi. Ora non mi saltate addosso. Io sono un invalido. E poi, l'ha detto Lindonira? Non io». Questo mi indispettì e decise di fare la conoscenza di Lady Lyndon, fosse solo per mostrare a sua signoria che il discendente di quei Berry, di cui lei ingiustamente si godeva la proprietà, non era una compagnia indegna per nessuna signora, neanche la più nobile. E poi, il mio amico cavaliere stava morendo e la sua vedova sarebbe stata la più ricca preda dei tre regni. Perché non avrei dovuto essere io a conquistarla e con lei i mezzi per fare del mondo quella figura che tanto mi andava a genio e tanto desideravo? Mi sentivo pari per sangue ed educazione a qualsiasi Lyndon della cristianità e decisi di piegare questa signora altezzosa. Mio zio e io discutemmo la faccenda e stabilimmo rapidamente un metodo per avvicinare questa maestosa dama di Castle Lyndon. Mr. Rant, l'istitutore del giovane Lord Ballington, amava i piaceri, un bicchiere di vinello del Reno nei ritrovi all'aperto in una sera d'estate e anche un furtivo tiro di dadi quando si presentava l'occasione. Ebbi cura di fare amicizia con questo tipo, che essendo un insegnante di collegio e per giunta un inglese, era pronto a buttarsi in ginocchio davanti a chiunque sembrasse lontanamente un uomo di alta condizione. Al vedermi con il mio seguito di servitori, il mio vis-à-vis e le mie carrozze, i miei domestici, il mio ussaro, i miei cavalli, al vedermi vestito d'oro, di velluto e di zibellino, al vedermi salutare i più grandi personaggi d'Europa quando li incontravo sul corso o ai bagni termali, Rant restò abbagliato dai miei approcci e fu mio al primo cenno del dito. Non dimenticherò mai lo sbalordimento di quel povero disgraziato quando lo invitai a cena insieme a due conti in una saletta del circolo e la cena servita su piatti d'oro. Lo facemmo contento lasciando che ci vincesse un paio di monete e allora diventò piuttosto alticcio, cantò le sue canzoni di Cambridge e rallegrò la compagnia raccontando nel suo orrendo francese certe storielle sui domestici del collegio e su tutti i lord che avevano studiato là. Lo incoraggiai a venire a trovarmi più spesso e a portare con sé il piccolo visconte. Il ragazzo mi detestò sempre, ma intanto avevo cura di fargli trovare una buona riserva di dolci, giocattoli e libri illustrati ogni volta che veniva. Massimo Popolizio ha letto Le memorie di Barry Lyndon di William Thackeray a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, riduzione di Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, www.radio3pod.rai.it.